tutto è un minuto, puntuali o quasi per questo 5 aprile 2024 in scena. Seguiamo la stagione Agorà, arrivata all'ottava edizione. Ritroviamo uno spettacolo che sarà in questo caso invece al Teatro Comunale di Argelato per la giornata di domani alle ore 21, cioè sabato 6 aprile. L'amica geniale a fumetti, compagnia Fanny Alexander, con noi Chiara Lagani, alla quale do il buongiorno. Buongiorno e bentornata, Chiara. Buongiorno, grazie. Grazie a te. Riprendiamo la conversazione dove l'avevamo lasciata anche nelle edizioni precedenti, il ritorno di questo lavoro che continua a colpire. E cosa ha più colpito, la realtà letteraria dell'amica geniale a fumetti, per quello che ritroveremo al Teatro Comunale di Argelato? Perché la scelta di questa storia, Chiara? Ma è un lavoro che mi piace moltissimo portare in giro, perché forse è uno dei lavori che chiama un pubblico più diverso, più variegato, e non è solo il pubblico del teatro che viene a cercare questo tipo di storia. Ovviamente lo si sa, è una storia che ha avuto milioni di lettori in Italia e altrove, quindi vengono molte persone a teatro che non ci sono mai state in questo modo, ed è molto bello poter avvicinare persone nuove. E poi c'è tutto il mondo del fumetto, che pare un mondo minoritario, ma come viene spesso detto ultimamente è un mondo in ascesa, perché la graphic novel, il fumetto, è un'arte che in questo momento vede fortunatamente il favore di eccoci qua. No, sei sparita un attimino, ma è questione di linea. Approfitto allora per dire che la nostra collaborazione col centro di ricerca Il Pioniere all'interno di Radio Città Fujiko, che mi ha chiesto tra l'altro la trasmissione perché si occupa di ricerca nel mondo di intersezioni per la grafica e il fumetto, quindi indubbiamente ci sono attinenze con quello che hai detto a proposito di realtà teatrali, letterarie e di grafica e di fumetti. E intanto non volevo interromperti, ma è stato un caso tecnico per meglio dire. Intanto parliamo di amicizia, com'è lavorare con l'attrice Fiorenza Menni e come riuscire a portare un forte legame di amicizia di cui tratta la storia. Lo spettacolo teatrale, da cui questo recital che domani sera presentiamo ad Argelato trae tantissimo ispirazione, materiali, perché ovviamente ci ha occupati per tanti anni in uno spettacolo lungo di più di 3 ore, che girava portando in scena i 4 libri di Ferrante, e eravamo in Fiorenza in scena, che siamo amiche storiche, e io penso che sia la ragione anche per cui ho scelto di intraprendere questo lavoro, la riduzione di questo capolavoro di Ferrante sulle scene, perché ovviamente ci sono tantissimi rimandi continuamente, no, all'archetipo di questa amicizia. Anche i lettori sentono vivissimo questo archetipo. Non sai quanti in questi anni coppie di donne vengono alla fine dello spettacolo insieme col libro in mano a dire: questa è la mia amica geniale. Quindi evidentemente il meccanismo di identificazione è molto attivo su questa storia, quindi non ha catturato solo noi, evidentemente. Certo, immagino, anche perché quando c'è una passione che va oltre il palcoscenico diventa ancora più intenso. È una passione, infatti, è una sensazione, infatti, che viene comunicata. Oltretutto aggiungo allora, chi è l'amica geniale in questo caso tra Fiorenza e Chiara? Non voglio svelare, però insomma. Diciamo allora, io e Fiorenza nello spettacolo appunto abbiamo portato in scena a due voci questo libro. In questo caso c'è un moltiplicarsi di amicizie geniali, perché il fumetto è realizzato con Mara Cerri, di cui vedremo anche le immagini proiettate, animate da Luigi De Angelis, che è regista ovviamente di Fanny Alexander, e anche con Mara c'è un'amicizia che forse non definirei geniale, perché non è un'amicizia fondativa, storica, ma è un'amicizia fortissima, che è nata lavorando insieme sui libri di Oz e che si è poi replicata con questo. Anche qui è un'avventura lunghissima, perché noi stiamo scrivendo il secondo dei libri, quindi è uscito il primo fumetto e adesso uscirà a breve, tra pochi mesi, il secondo, poi ci sarà un terzo e un quarto. Quindi diciamo che di amicizia è fatta questa storia di trasposizioni in vario modo di questo grande romanzo di Ferrante. Che bello che usi la parola fumetto e un po' meno la parola graphic novel, eh? Questo è un mio parere personale intanto. Ascolta, io ti prometto che all'orario prestabilito, visto che sei stata puntualissima, ti lascio la tua quotidianità. Scusa, possiamo mettere un piccolo brano musicale? Ma certo. Poi rientriamo in diretta, perché vorrei saperne di più appunto tra questi incontro. Va bene, aspetto in linea. E palcoscenico. A tra poco. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new Simone. Abbiamo anche Nina Simone in playlist, commento musicale per l'amica geniale a fumetti Fanny Alexander, con noi Chiara Lagani, domani al Teatro Comunale, stagione Agorà, Teatro Comunale di Argelato, per la precisione via Centese 50. Piaciuta l'amica geniale Nina Simone? Tra l'altro Nina Simone è un altro dei personaggi delle nostre gallerie, perché abbiamo da poco debuttato con uno spettacolo dedicato a lei, quindi non potevi farmi regalo più grande. Guarda, bene, visto che senza metterci d'accordo alla fine abbiamo portato anche nella playlist il commento ideale. Collaborazioni, l'amica geniale pubblicata dalla prestigiosa Cocconino Press, ci puoi dire qualcosa di più? È un'idea anzi della casa editrice di Giovanni Ferrara, che è il direttore artistico appunto della casa editrice, che una volta che io e Mara andammo da lui a proporgli un altro lavoro sulla Ortese precisamente, disse sì, bellissima idea, ma prima ho una proposta io per voi, perché sapeva che entrambe ci eravamo occupate dell'amica geniale, aveva in animo di realizzare un fumetto, e quindi ci ha stupite con questa proposta che forse noi non avremmo osato concepire. Per la, insomma, è il fumetto ufficiale mondiale, abbiamo i diritti in esclusiva e quindi c'è una responsabilità anche in questo lavoro. E però ci siamo imbarcate come due folli, come sempre, in questa avventura, ed eccoci qua. Per fortuna che lo abbiamo fatto, perché insomma ci piace molto lavorare insieme su quest'opera in particolare. L'interazione sarà con disegni animati da Luigi De Angelis per dare corpo e volto ai momenti evocati nelle parole dell'aspetto letterario. Com'è interloquire con questa, ne parlo con un'attrice giustamente, com'è questa esperienza di interagire con un disegno animato? Ma sai, non è, ti potrei stupire, però non è così diverso che interagire con corpi viventi. In particolare, certo. Guarda, lo è stato nella scrittura, perché io, sai che mi occupo anche delle drammaturgie nei nostri spettacoli, sì. Quando aspettavo i disegni di Mara per, diciamo, scrivere le battute, per portare a compimento lo script, era come quando aspetto di portare in sala prove i testi e vedere che cosa diventeranno nei corpi degli attori. Non è un meccanismo tanto diverso, c'è sempre una relazione con un altro essere che in qualche modo diventa vivo lì, sulla scena, per cui non a caso si usa la parola animato e Luigi li ha in qualche modo animati, per cui insomma... devo dire che in questo mi sono trovata subito a mio agio. E nell'aspetto letterario il fumetto è incentrato sull'infanzia e l'adolescenza delle protagoniste, a partire da un episodio fondante di questa complicità e amicizia. Due amiche, due bambine, gettano per reciproca sfida le loro bambole nella profondità di uno scantinato buio. Quando poi vanno a cercarle, le bambole non ci sono più. Le due bambine, convinte che Don Achille, l'orco della loro infanzia, le abbia rubate, un giorno però trovano il coraggio di andare a reclamare. Insomma, direi che anche una trama molto avvincente, particolare, emozionante ed emotivamente qualcosa che ti prende, certo, l'idea dell'immagine e allo stesso tempo la conversazione, l'interazione, il palcoscenico portato dalla stagione Agorà per la proposta nuovamente con l'amica geniale a fumetti che continua, per così dire. Ci siamo sentiti un anno e un po' fa per la presentazione, quindi ne sono ben contento che ci sia una continuità. Io ricordo che è sabato 6 aprile, ovviamente 2024, ma facciamo prima a dire domani alle ore 21 al Teatro Comunale in via Centese 50 ad Argelato. L'amica geniale a fumetti, Fanny Alexander, con noi, regia di e con Chiara Lagani. Io ti ringrazio tantissimo, Chiara, sono le 8:13 minuti. Bravissimo. Direi che siamo stati anche nei tempi, ok? Bravissimo. A presto allora. A presto. E buona giornata. Ciao. Grazie anche a te. Ciao. And the money's too tight.